5. A mensa. Il momento più bello della giornata è a mensa. A mensa c'è Andrea, un ragazzo della terza G. È simpatico e carino. Ha gli occhi e i capelli neri. È alto e atletico. È un vero leader, ma gentile con tutti. Ad Alexandra, Andrea piace molto. Il tavolo della terza G è vicino alla cucina. Un giorno Alexandra chiede: «Professoressa, l'acqua è finita! Posso andare in cucina?» «Va bene!» Alexandra passa vicino al tavolo della terza G. Andrea la guarda e fa un sorriso. Anche Alexandra sorride. «Ehi, Andrea! Ti piace quella ragazza?» chiede Emanuele, un amico di Andrea. «Chi? Quella!» dice Emanuele. «Ma no!» «Ehi, senti!» Emanuele chiama Alexandra. «Come ti chiami?» «Alexandra!» «Sei nuova?» «Sono arrivata quest'anno!» «Ma non sei italiana! Di dove sei?» chiede Emanuele. «Vengo dalla Romania!» dice Alexandra e va in cucina. «Allora, ti piace?» chiede Emanuele ad Andrea. «No! Secondo me ti piace!»